io intendevo questo, ad esempio in campo teatrale, perché un Marco Paolini ha trovato una nuova forma di comunicazione, o ha usato lo stesso sistema che già preesisteva? Ha raccontato cose che molti sapevano già. Come mai è riuscito ad attrarre così tanta gente? Perché ha trovato una nuova forma di comunicazione che non è nient'altro poi che la ricombinazione di forme precedenti. In questo senso Marco Paolini, secondo me, ha fatto un intelligente uso della sedimentazione di saperi che venivano prima di lui e che lui ha ricombinato in una forma che, era seducente senza essere omologata, senza essere appiattita sull'apparente richiesta, come diceva lui, la base prima, chi avrebbe mai pensato che avrebbe riempito i teatri di mezza Italia e avrebbe fatto l'audience televisiva che ha fatto un singolo che si mette a parlare di fatti inerenti alla storia di 25, 30, 45 anni prima? Nessuno. Lui invece è riuscito a farlo, secondo me, attraverso un uso intelligente della comunicazione e una riflessione, in questo senso sono d'accordo con quanto diceva lui prima, una riflessione anche di tipo teorico, che viene anche prima, basata su dei saperi sedimentati, perché non è il primo. C'è i cantastorie, pensate tutta la tradizione del teatro orale, bla bla bla bla bla bla. Paolini l'ha rigirata in un modo relativo, in un modo che teneva conto delle condizioni del presente, e ha funzionato. Mentre tu dici che nel caso della Meglio Gioventù, che io non ho visto, ha visto mia figlia di 15 anni, che c'è scritto perlomeno, si è interessata a qualche cosa che è successo 30 anni fa, in questo aspetto positivo ce l'ha poi facendo 900 parti, ho detto, beh, cioè, dopo che ha fatto quella cosa lì può permettersi di fare tutto, no? Cioè, non so, lui non ha usato gli stessi mezzi di comunicazione, cioè non ne ha trovati di nuovo. Ma non ha fatto nessuna riflessione su che cosa stava facendo, secondo me. Cioè, Marco Paolini ha utilizzato uno strumento, un luogo che è il teatro, un linguaggio che è quello del teatro, in una maniera assolutamente non, omologata, assolutamente non insegue, se vogliamo, una... mi mancano le parole, ogni tanto faccio in afasia e parlo troppo, non insegue quello che il pubblico voleva. Ha fatto una sua proposta intelligente e, secondo me, non casuale, ma consapevole, cosciente. Gli ci è voluto tantissimi anni. Oggi, lui prima mi ricordava quando Paolini non se lo filava nessuno, e poi è riuscito. Secondo me il caso della Meglio Gioventù è un caso invece in cui sostanzialmente prendi un soggetto apparentemente diverso, ma utilizzi lo stesso linguaggio, che è il linguaggio dello sceneggiato televisivo. Cioè, in realtà la Meglio Gioventù, secondo me, tra la Meglio Gioventù e Incantesimo non c'è alcuna differenza. È semplicemente il messaggio apparente che cambia, ma il messaggio profondo, e possiamo, se volete, anche andare dentro, ma non hai visto il film, poi non vorrei farne una cosa... Il messaggio non dipende dal linguaggio. Il messaggio è il linguaggio. Questo che ti dice la forza di Paolini, non è che parla del Vaillant, non è importante per Vaillant, è perché è il singolo individuo che con la sola parola, cioè col linguaggio, ti siede.